La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Questa affermazione costituente è una grande rottura con la legislazione precedente, perché prima di allora lo Stato italiano, il Regno d'Italia, parlava di una religione di Stato e accanto le altre religioni si chiamavano culti ammessi. Già il termine ci fa capire che non c'era assolutamente parità. In Assemblea Costituente, pur ponendosi la questione romana risolta nell'articolo 7, si arriva a questa importantissima affermazione, l'affermazione della parità di tutte le confessioni religiose. Questa è la grande affermazione della laicità dello Stato italiano. Lo Stato non ha una religione propria. Lo Stato riconosce tutte le confessioni egualmente libere davanti alla legge e garantisce anche dei particolari rapporti fra le singole confessioni religiose e lo Stato, come mediante delle intese, rispettando quel principio concordatario che viene utilizzato anche per la Chiesa Cattolica. In quel che riguarda la stipulazione delle intese, quindi la scrittura delle intese, vengono fuori ed emergono i rapporti della singola confessione religiosa con lo Stato. Ecco ad esempio che nell'intesa con la UCEI, quindi con le comunità ebraiche, è venuta fuori tutta la problematica delle festività ebraiche riconosciute dallo Stato italiano, o ad esempio in quella con i testimoni di Geova è emersa tutta la questione dei trattamenti sanitari che per i testimoni di Geova sono differenziatamente trattati. È molto importante questo principio concordatario perché consente proprio dei punti di contatto fra la disciplina statale e la disciplina religiosa, volte a garantire la piena parità di tutte le confessioni nelle loro diversità.